Tu strati vari, io vero strato, io comincio, tu finisci, lei sorpresa come Kinder, chi non spinge ti respinge, Sado e Maso, 4/4, 2 secondi, primo passa, no contorni con i tonni, bracci e ferri. Sappi fingere al momento quello giusto, giusto il tempo di costringere un unguento, ti battezzo, mozzo in barca, nave in acqua, neve in Sudan, Butan Clan che mangia il futan, assetato sopra il futon, di traverso le piglottide inghiottisce l'acqua liscia naturale, ferrarelle ne vedremo delle belle con le rime più maroni di Nutella, se Pennella mi morisse voto Craxi. Giallo taxi come piscia di Gabibbo, striscia in corsa come l'Apo, l'automobile a Torino, vale 7 kg il cocco, travestite a carnevale non ne voglio, elementare Watts, lo sciarlocco con parlocco della Digo, sviato smuti, nati a Bari come nebbia tra gorilla, il gorilla nella nebbia come spade di sammuccioli, son cuccioli di cani andati a mare, autostrade, portafogli nei mercati delle borse, forse è meglio dargli addosso, solo sassi, niente auto, solo stop. Non vendiamogli più il latte, lapidiamo le cravatte. Solo sale, se ti sviene col salasso, la grandiva si tramuta in San Giovanna, coscia lunga, senza l'arco, orco tinto, variopinto, rimanesti anche a digiuno per quell'ultimo dipinto. Punto molto più di Silvio con Emilio Fido, Dido che si infilerebbe un dildo, gli darebbe il letto caldo in pieno inverno. Non vendiamogli più il latte, lapidiamo le cravatte. Non vendiamo più il latte, lapidiamo le cravatte. Non vendiamo più il latte, lapidiamo le cravatte. Thank you.